Allora, a noi piace definire la consultoria autogestita come l'espressione di una messa in comune, di una condivisione di necessità e di bisogni e di una ricerca collettiva di soluzione. Il progetto della consultoria autogestita è nato a Milano all'inizio degli anni 90 da un gruppo di donne che provenivano da collettivi politici, territoriali e studenteschi misti e che avevano dato origine a un gruppo separato di elaborazione politica. L'argomento più ricorrente in questo collettivo era quello della salute delle donne. Nei primi anni 90 a Milano c'era una situazione totalmente diversa rispetto a quella che ci troviamo davanti ora, perché c'erano consultori ospedali con equipe efficienti, disponibilità a prescrivere la pillola del giorno dopo, a praticare il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, c'erano comitati di utenti all'interno dei consultori. Il problema più sentito quindi in quel periodo non era una carenza di servizi, ma il fatto che le risposte fornite fossero di fatto inadeguate per chi tra le compagne aveva già intrapreso un percorso di riappropriazione di saperi sul proprio corpo. Nasceva quindi un percorso molto interessante, prima di ricerca, riflessione, sperimentazione e poi di messa in pratica per rendere usufruibile anche da altre donne le conoscenze maturate dalle compagne. Per cui mappatura di servizi, ricerca e studio sugli anticoncezionali, discussione critica sull'aborto, sulla legge 194, sulla RU486 e tutto questo nella quasi totale assenza di punti di riferimento e di passaggi di testimone. Nel 95, dalla discussione in collettivo, le compagne poi sono passate alla pratica con l'apertura della prima vera e propria consultoria autogestita come spazio riservato alle donne all'interno dell'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti che aveva aperto un anno prima, nel 94. Questa esperienza è durata fino al 2001, anche se poi le compagne rimaste che portavano avanti anche l'attività dell'ambulatorio popolare hanno continuato ad essere un punto di riferimento per tutto quello che riguarda la salute delle donne a Milano. Poi nel 2008 un altro collettivo di donne, Le Mai State Zitte, ha dato via via alla campagna Obiettiamo gli obiettori contro l'obiezione di coscienza dei medici e del personale ospedaliero sull'interruzione di gravidanza, nel momento in cui era ormai chiaro come le reti di potere di Comunione e Liberazione, che al tempo erano capeggiate dall'allora presidente della regione Lombardia Formigoni, queste reti avessero preso il controllo dei reparti di ginecologia ostetricia degli ospedali milanesi e lombardi. In questo contesto, in cui ci si concentrava molto sull'attività di monitoraggio dei consultori e degli ospedali milanesi rispetto all'interruzione di gravidanza, rinasce l'esigenza di una consultoria autogestita. La situazione ovviamente alla riapertura della consultoria era molto cambiata rispetto a 10 anni prima, perché le compagne che si erano ritrovate a riaprirla si sono trovate davanti servizi sempre più scarsi e inadeguati, soglie troppo alte di accessibilità alle strutture sanitarie e questa era una situazione che ricadeva soprattutto, ma non solo, sulle donne migranti. Ad esempio con l'aumento del ricorso all'aborto autoprovocato tramite farmaci come il Citotec, che è un farmaco anti-ulcera che preso in dosi massicce provoca l'aborto. E questa situazione ci ha convinto ancora di più della necessità di aprire uno spazio facilmente accessibile e riservato alla salute di tutte le donne. La consultoria però con la sua riapertura non voleva essere una toppa alla carenza dei servizi. Oltre allo spazio dove trovare informazioni e indirizzamento su ospedali e consultori e dove poter avere un consulto e effettuare una visita ginecologica, era rimasta anche centrale l'attività di pungolamento politico rispetto ai temi della salute delle donne, per cui dallo stravolgimento della natura dei consultori pubblici alla presenza del Movimento per la Vita nei principali ospedali ginecologici di Milano e Interland. Non solo, la consultoria aveva riaperto anche per divenire un luogo di incontro, di stimolo e di circolazione e di scambio di idee ed esperienze diverse. Infatti si sono negli anni organizzati mol incontri molto interessanti su diversi temi, tra cui le politiche sanitarie regionali e lombarde, in particolare sui consultori, sui servizi di prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili. un'occasione che aveva visto il confronto tra due realtà, cioè quella piemontese e quella lombarda. C'è stato un gruppo diciamo, non un gruppo di studio, però un gruppo di autoformazione sul papilloma virus e sulla Certo, campagna di sì. vaccinazione di massa proprio, che era stata promossa dalla Regione Lombardia. E poi la medicalizzazione è sempre più ad alto raggio del corpo delle donne e non ultimo la presenza delle donne all'interno delle lotte politiche e sociali. E uno dei nodi alla base della ripresa del progetto della consultoria riguardava la consapevolezza di sé del proprio corpo, strettamente collegata alla non delega ad altri del proprio benessere, della propria salute e della propria cura. Una consapevolezza che abbiamo ritenuto non poteva fermarsi al ragionamento sul corpo, strettamente a questo ragionamento, ma che doveva spingersi a valutare anche, diciamo, il contesto, socio-economico, i costi sociali, animali e ambientali dei sistemi medici con cui ci troviamo a che fare, insomma, quale sia un po' la sostenibilità, tra virgolette, della nostra salute. E adesso un po' di persone sono cambiate all'interno della consultoria, per cui altre donne si sono avvicinate al nostro percorso, portando nuove esperienze e nuove riflessioni. In questo momento, dove portiamo avanti l'attività di sportello come abbiamo sempre fatto, abbiamo deciso di dedicare del tempo, magari sacrificando anche alcuni percorsi comunque molto interessanti che si stanno susseguendo in questo periodo a Milano. Però proprio abbiamo deciso di dedicarci a una riflessione più ad ampio raggio su quello che concerne la nostra salute e le connessioni tra la scienza medica, il patriarcato, il capitalismo e il razzismo, che è ovviamente un argomento enorme, pieno di nodi da sciogliere e di contraddizioni, però proprio riteniamo che sia una parte fondamentale per poter andare avanti, per riflettere in modo politico su quella che riteniamo essere la nostra salute e la cura del nostro corpo. Quindi la consultoria in effetti è uno spazio di autodeterminazione demedicalizzato, ma è fondamentalmente uno spazio politico, perché diciamo che la salute, la tutela del corpo, il riprendersi le conoscenze, di fatto sono questioni politiche, in effetti, come hai chiarito benissimo. Adesso un attimo prendiamoci qualche istante e poi ci racconterai un po' nello specifico cosa fate adesso. The story goes, Eccoci, allora. Eccoci. Diciamo che ci interessa moltissimo come declinate in questo momento quello che ci hai raccontato finora. Mm-hmm. Allora, diciamo che da un punto di vista più strettamente legato all'apertura dello sportello, abbiamo cercato di riflettere proprio su come lo pratichiamo questo sportello, per cui insieme alla ginecologa abbiamo rivisto insieme la costruzione della nostra, chiamiamola cartella clinica, che poi chiamo la cartella clinica, certo. Forse un po' sui generis, insomma. Però abbiamo cercato, ecco, di non fare la solita cartella medica in cui viene registrata solo l'anamnesi e poi di volta in volta che cosa succede fisicamente alla donna che si rivolge alla consultoria, ma anche una parte proprio più di racconto della storia della persona. E questa parte di solito viene affrontata non solo insieme alla cioè da parte della donna insieme alla ginecologa, ma anche con una di noi presente, proprio per cercare di che il colloquio sia meno medico, insomma. Che esatto, sia meno cioè una prima parte di colloquio che venga fatta a tre, ecco, certo. Proprio per dare anche, cioè proprio l'idea di, proprio di una relazione, di un tipo di relazione diversa. E questo è una parte di discorso che abbiamo collegato anche alla necessità di un po' decostruire la figura dell'esperto, che è certo. Una delle cose con cui si impatta molto più facilmente nel momento in cui si ha a che fare con la medicina. Certo, le donne sono molto indifese in effetti, no? Perché è un sapere che viene tenuto stretto, la donna non viene fatta più partecipe di tanto, anzi di solito gli esperti si seccano se vengono chieste troppe cose. Esatto. Invece proprio ci piaceva il fatto che cioè le cose venissero spiegate in un certo modo, perché ovviamente è difficile parlare di una riappropriazione dei saperi, perché è improbabile che ci laviamo tutte in ginecologia, però più che la figura dell'esperto è proprio una questione di decostruire la relazione gerarchica, certo. Tra una persona che ha fatto un certo tipo di studi, che è diventata ginecologa e che quindi sa determinate cose, però dall'altra parte c'è anche una persona che queste cose le vive sul suo corpo e quindi ha un altro tipo di conoscenza su se stessa, che in quel momento sta mettendo sullo stesso piatto, no? E anche un altro tipo di percezione di tutta una serie di cose, no? Esatto, quindi non è tanto il sapere, però proprio la relazione gerarchica che si innesta nel momento della visita medica o della visita ginecologica, che stiamo cercando di decostruire anche proprio in termini pratici, certo. Cercando di fare le visite in questo modo. Ma praticamente la ginecologa viene da voi, quindi a giorni fissi? La ginecologa fa parte del nostro collettivo. Ah, fa parte. Per cui sì, anche questo è un altro dei nostri punti di forza, secondo me, perché anche quando si parla poi di, tra virgolette, di massimi sistemi, è anche molto utile avere una persona che invece ha visto le cose però dall'altra parte. E anche perché aiuta proprio a sciogliere molte contraddizioni, no? Perché noi magari che siamo abituati a un certo approccio alla salute, diciamo, è il medico che dice poco, che racconta poco e che si infastidisce, però è anche vero che molte persone non sono neanche più abituate ad esigere certe, no, è vero, certe le donne hanno perso questa abitudine, sì. Hanno perso l'abitudine. Sì, sì, esatto. No. Continua, scusa. E quindi cioè, anche vedere le cose dall'altra parte e discuterne politicamente, secondo me è un'esperienza unica per come la sto vivendo io in questo momento in collettivo. E questo ovviamente fa sì che ovviamente no, Abbiamo ancora tantissime cose da discutere in questa riconfigurazione della consultoria che stiamo tentando di fare, però stiamo mettendo sul piatto tantissime cose su cui discutere, proprio per cercare di arrivare a un luogo fatto da donne e per le donne, che non sia anche percepito da fuori come un semplice sportello, ma un posto dove vivere diversamente e praticare un diverso tipo di salute, perché poi noi possiamo parlare di demedicalizzazione, depatologizzazione, però cioè, a monte sta anche che cosa intendiamo noi per salute, Certo. perché è ovvio che cioè, nel contesto in cui viviamo, essere in salute molto spesso vuol dire non avere male da nessuna parte, essere sempre giovani, essere sempre produttive, ad esempio, Sì, e non il avere mai concetto di nulla. salute in questa società è legato strettamente al fatto di essere produttive, questo non ci piove, cioè essere Esatto, sempre non essere presenti mai a se ammalate. stesse, certo. E invece molto spesso la salute può essere anche semplicemente stare bene nella condizione in cui si è, accettare che ogni tanto ci si ammala perché è fisiologico, che succeda Certo. così, che ogni tanto ci siano dei problemi, ma che la soluzione, anche un po' il contesto di riferimento possa davvero essere un altro e non quello necessariamente farmacologico o necessariamente biomedico che viene imposto. Ecco. Il fatto di prendere coscienza di questo, te lo dico per esperienza diretta, è talmente importante che ti dà anche una capacità di reagire a quello che ti succede in maniera diversa. Perché il fatto di, tra virgolette, impasticcarsi, no? Ed essere sempre in uno stato di benessere anche fittizio, perché quando una, per esempio, ha un mal di testa e si impasticca, è chiaro che poi magari le passa, però è uno stato di benessere fittizio. Invece la capacità di capire perché le è venuto e magari di dare una pausa a quello che sta facendo e a fare una scelta di questo tipo è proprio un'impostazione diversa rispetto alla vita. Esatto, ma anche banalmente come viviamo ad esempio i giorni del ciclo mestruale, perché invece di prendersi l'antidolorifico, eccetera, magari semplicemente basta accorgersi di dover prendere un ritmo diverso, no? Certo, E infatti proprio. invece, cioè, la tendenza è sempre quella di eliminare il problema, eliminare il dolore e far finta di non avere un corpo a un certo punto. Sì, ecco, sì, cioè pretendere che questo corpo sia qualcosa che addirittura è finto, no? Dovrebbe camminare secondo dei criteri che rispondono alle esigenze del momento e non a quelli che invece pone lui, che sono quelli Esatto, e questo fondamentalmente. ad esempio noi l'abbiamo discusso anche riferendoci a quelle fasi della vita di una donna, ad esempio la menopausa, in cui la tendenza di buona parte dei medici e dei ginecologi è quella di bombare di ormoni la donna perché deve sempre risultare giovane, perché con la menopausa, cioè sembra che sia quasi un disfacimento del corpo, inaccettabile invece che c'è il procedere della Cioè il vita, ciclo no? della Che vita, è allucinante, certo. esatto. Invece c'è, vabbè, a parte le case farmaceutiche che ovviamente sono i loro interessi, per cui su quello c'è anche un po' poco da discutere, secondo me. No, Cioè, c'è beh, proprio questa viene da sé, tendenza. viene da sé. Cioè, nel senso, quelli fanno i loro interessi, per Certo. cui. Però proprio. La tendenza a dare ormoni in risposta invece a un momento che è assolutamente fisiologico nella vita di una donna, Ma questo come se poi fosse risponde anche, inaccettabile. sì, ma questo risponde poi anche, no, alla scala di valori che ha la Esatto. società, per cui la donna finché è fertile deve provocare un immaginario di bellezza, eccetera, se non è più fertile questo immaginario di bellezza. Anche se poi adesso, dato che tutto tutte merce, mercificano anche l'anzianità, no? Fra virgolette, sotto altri aspetti. Quindi è un rapporto difficilissimo con sia la medicina sia la salute. Diciamo che il vostro penso che sia un impegno molto coinvolgente, anche perché entrate in rapporto direttamente con le donne. Una curiosità, tanto per chiudere un attimo il discorso rispetto anche a chi viene, alle donne che vengono da voi. Per esempio, le donne che vengono da voi ritornano, vengono per il servizio, si rendono conto o vengono già edotte e quindi per amicizia, per dipende, percorsi? Dipende. Perché alcune ovviamente, non so, tipo compagne dell'ambulatorio o di altre realtà politiche a Milano, vengono perché sanno cos'è la consultoria autogestita. Altre invece, altre donne invece magari arrivano tramite l'ambulatorio medico popolare perché sanno della conoscono l'ambulatorio medico popolare nel momento in cui sanno che c'è la possibilità di fare anche visite ginecologiche, vengono anche in consultoria. Altre invece magari tramite passaparola per associazioni oppure per altre donne che sono già venute a farsi visitare in consultoria, per cui in realtà le donne che vengono sono un panorama estremamente vario, però devo dire che molte ritornano, anche di quelle che non fanno parte, diciamo, delle realtà di movimento, chiamiamole così. Sì, questo infatti mi interessava, se chi veniva era già parte del movimento, comunque di altre anche realtà di movimento, o se era un tipo di donna che magari capitava anche per caso in una situazione di questo tipo, oppure come dicevi tu appunto mandata dall'ambulatorio popolare, che però magari scopriva determinate cose. Sì, poi dipende anche dal motivo per cui una donna viene in consultoria, perché ad esempio donne che magari, cioè perlomeno per la mia esperienza, donne che vengono per un'interruzione di gravidanza magari non tornano la settimana dopo, ecco, cioè certo. Finita l'interruzione generalmente non ritornano, però credo che sia anche una condizione emotiva e assolutamente personale della donna, che capisco che non che sia diversa da altre. Invece, ad esempio, abbiamo visto che altre che hanno deciso di farsi seguire in gravidanza in consultoria sono tornate e si è creato anche un bel clima. Infatti siamo anche molto contenti di questo, anche perché ci sono altre compagne che sono diventate mamme da poco e quindi c'è anche proprio più una facilità di scambio di esperienze diverse. Crea un coinvolgimento ovviamente diverso, ecco. Bene, siamo molto contente di questo contributo. Grazie tantissime, ringrazio tutte le compagne e vi mandiamo un grande in bocca al lupo da tutte noi. E un grande abbraccio anche a tutte voi. Grazie, un saluto grande. Ciao. Ciao.